Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Le famiglie italiane si confermano piccole formiche, scarsamente indebitate e anche in periodo di crisi più virtuose di altre nella gestione del credito che viene loro concesso dalle banche, con una tradizionale priorità sempre ben presente. Se si chiedono soldi in prestito lo si fa soprattutto per comprare casa. Questo è il quadro sul rapporto fra banche e famiglie che è emerso ieri nel corso di un convegno che è stato organizzato dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, non ieri, forse l'altro ieri. Il convegno si chiamava Credito alle famiglie 2009, lo sapete, il sistema bancario è fortemente contestato in questo periodo perché soprattutto non sta facendo credito alle imprese. Ma cosa è emerso invece relativamente alle famiglie? Che non presentano in Italia, ma questo lo sapevamo, eccessivo indebitamento, non presentano finanziamenti e un elevato atteggiamento di rischiosità, le sofferenze sono sotto controllo, però i rischi del passato, del passato recente, dei mesi passati, nessuno li ha dimenticati. Quando i tassi sono schizzati alle stelle, lo ricorderete benissimo cosa è successo fra settembre ed ottobre, periodo nel quale molte famiglie hanno cercato di rivedere con la propria banca le condizioni del proprio finanziamento, in alcuni casi riuscendoci, in altri no. Nel frattempo era intervenuto, anche in questo caso lo ricorderemo bene, il governo con il famoso tetto del 4%. Se il tasso praticato sul vostro mutuo variabile supera questa soglia, aveva promesso il ministro Tremonti, l'eccedenza la paga lo Stato. In questi mesi i tassi sono scesi sotto questa soglia, sono finiti molto sotto, ma qualche famiglia che a gennaio pagava ancora un tasso superiore c'era e meritava la restituzione di questa eccedenza, che però non è arrivata. Allora oggi faremo un punto della situazione su questo, ma facciamo anche un altro punto, accenderemo un riflettore su chi il mutuo non ce l'ha e deve accenderlo a breve. Molto spesso ci dimentichiamo anche di queste famiglie che stanno comprando casa adesso. Che condizioni sui tassi stanno trovando, che scelta è meglio fare, come si fa a spuntare la migliore condizione possibile con la banca? Tutti i temi che affronteremo con il nostro Maximiliano Ancellino, Plus 24, Il Sole 24 Ore, bentornato. Buongiorno. Pietro Locatelli, consulente di Avalon SPA, Gruppo Palladio, lo avevamo già conosciuto in passato, dottor Locatelli, presidente di Sistema Mutui, bentornato anche a lei. Buongiorno tra di noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E abbiamo in collegamento telefonico Angelo Peppetti, settore crediti retail dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Dottor Peppetti, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette di farci le vostre domande, di interagire con noi, ma ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Andiamo a dare un'occhiata alla borsa, che era partita male, poi è peggiorata, poi è migliorata in Europa, adesso torna a peggiorare e vedo già che i cali si stanno avvicinando al punto e mezzo a Francoforte e a Milano sul FTSE MIB. Perde un po' meno Parigi, ma è sempre un calo dell'1,27%, ancor meno perde Londra, che cede lo 0,49%. Abbiamo una giornata quindi di prese di profitto dopo i forti rialzi di ieri, che però erano seguiti a due giornate molto, molto deboli. Abbiamo oggi diversi dati economici dagli Stati Uniti, a cui il mercato guarderà senz'altro, e siamo anche reduci dalla riunione della Banca Centrale Americana, che ha deciso di mantenere i tassi di interesse fermi in questa banda di oscillazione fissata fra lo 0 e lo 0,25%, praticamente tassi a zero negli Stati Uniti, ed è un livello cui probabilmente rimarranno ancora per diverso tempo, secondo quanto ha indicato ieri sera la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana. D'altronde le condizioni di mercato si sono stabilizzate, ma le condizioni economiche sono ancora molto precarie, pertanto probabilmente questo sostegno è ancora necessario. Un'occhiata a Piazza Affari e titoli che stanno mettendosi in luce. Questa mattina abbiamo un rialzo di 3 punti su Telecom. Goldman Sachs l'ha inserita nella sua lista di titoli da comprare con convinzione. È tutto detto in inglese, ma io vi traduco in italiano in sostanza in che cosa consiste questa lista di Goldman Sachs, in cui viene premiata Telecom. Fiat più 1,10 sta tentando di riportarsi sui 7 euro, ma non ce la fa. Prima era un po' più vicina a questa soglia. A2A più 0,3, Saipem più 0,18, e abbiamo terminato la lista con i titoli dei titoli con il segno più davanti, mentre abbiamo un calo di Tenaris del 3%, ma ieri ne ha guadagnati 7, CIR meno 2,75, Pirelli meno 2,58, Pirelli e Unicredit perde pure lo 2,5 punti, la Popolare di Milano meno 2,34. Abbiamo un bel gruppo di titoli che sono in calo di oltre 2 punti, Mediobanca, Mediaset, Enel, Eni, Parmalat, Ubibanca e anche Mediolanum, ma che ieri è stato il miglior titolo della seduta, e anche in questo caso parliamo di un titolo che ha avuto un rialzo ieri di quasi 8 punti. Euro su dollaro a 1,3936, il petrolio si mantiene sotto i 70 dollari al barile, ma flirta con i 68,5, con i 69, per cui chissà che non ritorni su questa soglia. In ogni caso accontentiamoci del fatto che stia sotto i 70 e andiamo al tema di stamattina, ritorniamo sui mutui. Sono passati più di 6 mesi dalla sua introduzione, ma nelle tasche della maggior parte dei potenziali beneficiari gli effetti del cosiddetto tetto del 4% per i mutui non si sono ancora visti. L'agevolazione era stata introdotta dal decreto anticrisi e voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura, a causa della crisi finanziaria, la rata del proprio mutuo. Cos'è accaduto in questi mesi? Le ragioni del ritardo sono differenti, anche se sarebbero principalmente imputabili alla trasmissione dell'elenco dei mutuatari aventi diritto all'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate alle singole banche. Comunicazione che evidentemente ha richiesto più tempo di quanto previsto. Tuttavia, a breve, la situazione dovrebbe sbloccarsi grazie anche alla discesa in campo dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che nei giorni scorsi ha inviato una circolare a tutte le banche invitandole ad accettare tutti i moduli di autocertificazione presentati dai clienti. Moduli che inizialmente dovevano servire soltanto per i mutuatari esclusi dall'elenco dell'Agenzia delle Entrate. Una mossa che di fatto estende a tutti i mutuatari coinvolti la possibilità di ottenere il contributo presentando un'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2010. Le banche a questo punto dovranno comunicare questa possibilità ai propri clienti, anche se alcuni nodi da sciogliere nella matassa del tetto del 4% restano. L'unica cosa certa per il momento sembra essere ancora una volta la consolazione che deriva dalla discesa del tasso Euribor, il parametro a cui sono agganciati i mutui variabili, che ormai viaggia intorno all'1,2%. In realtà stamattina siamo scesi ulteriormente perché il parametro a 3 mesi è sceso all'1,15. Maximilian Cellino, tutto merito di questa maxi operazione che è stata fatta ieri dalla Banca Centrale Europea, termini tecnici anche un po' complicata, però in realtà l'effetto è stato questo, perché un calo dall'1,20 all'1,15 è stato anche piuttosto forte, considerata la dinamica a cui ci siamo abituati nelle ultime settimane. Sì, un calo del genere fa proprio pensare, di tale portata fa proprio pensare che sia stata una motivazione tecnica, quindi quei 442 miliardi di euro, che non sono pochi, con cui la Banca Centrale Europea ha inondato il mercato monetario con un'asta a 12 mesi, una novità per la Banca Centrale Europea, e una delle mosse di politica monetaria non convenzionale alla quale le banche centrali ci stanno abituando in questi ultimi tempi. La Banca Centrale Europea probabilmente potrebbe non ritoccare più i propri tassi, attualmente all'1%, ma non è soltanto dietro a questo tipo di tassi che si muove l'Euribor e i mercati monetari, si muove anche dietro altre operazioni tipo questa della Banca Centrale Europea, ed è per questo che l'Euribor a 3 mesi, che dicevi prima, è sceso all'1,15 e potrebbe scendere ulteriormente, sì, anche avvicinarsi oltre l'1%. Di conseguenza anche l'Euribor a 1 mese, che è sceso generalmente sotto l'1% più basso, è sceso sotto l'1% già da un bel po', sembrava risalire verso l'1% qualche settimana fa con qualche pericolo di inflazione ben lontano in realtà, ma già si stava cominciando a pensare a qualcosa del genere, e adesso è tornato a scendere ben sotto lo 0,90. Allora, questo è il quadro sull'Euribor, e che ci condurrà tra qualche momento a parlare di quella che potrebbe essere considerata adesso la miglior scelta da fare sul mutuo. Il mutuo a tasso variabile in questo momento è straconveniente, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma non è detto poi che il fisso non lo sia altrettanto. Noi però prima, siccome Angelo Peppetti dell'ABI alle 12.30 ci deve salutare. Spendo qualche minuto di tempo in più rispetto agli altri due ospiti che ho in studio in questa prima parte con lui, perché vogliamo fare il punto su questo famoso tetto del 4%. Molte persone continuano a scriverci, Peppetti, perché ancora non capiscono come mai, pur avendone diritto, un diritto che era stato soprattutto maturato nei primi mesi di quest'anno, poi i tassi sono scesi in maniera dirompente, pertanto il 4% praticamente di chi ha il mutuo a tasso variabile non lo paga assolutamente più nessuno in questo momento. Però qualcuno che all'inizio dell'anno aveva acquisito questo diritto sicuramente c'è, e si aspetta che la banca, con retroattività e con tutti gli interessi appunto che deve, restituisca questa eccedenza. Allora, ci sono speranze che la banca ci restituisca quanto il governo ha promesso? Peppetti, a che punto siamo? Innanzitutto non è una speranza, ma è una certezza. Verrà sicuramente restituito quanto dovuto, anzi attribuito più che altro quanto dovuto. Dobbiamo dire che, come giustamente nella vostra rubrica avete citato, i ritardi non sono imputabili alle banche, i quali pagano purtroppo il ritardo, in quanto ovviamente noi dobbiamo riconoscere il contributo con valuta, quindi maggiore ritardo, maggiori sono gli interessi che pagano le banche nel riconoscere il contributo al cliente, proprio per cercare di accelerare ed informare la clientela che non è adeguatamente informata. Abbiamo, con una recente circolare, chiesto alle nostre associate di inviare nell'informativa, che solitamente si invia alla propria clientela, della possibilità di utilizzare il certificato in cui il documento di autocertificazione in cui si dichiara di essere tra i beneficiari della norma che consente la riduzione delle rate con il tetto al 4%. I clienti avranno la possibilità di presentare questo sistema di documenti di autocertificazione, che è scaricabile dal sito dell'ABI, entro il 31 gennaio 2010, e ripeto, ne verrà riconosciuto poi il contributo con valuta scadenza rata, quindi a gennaio, con la valuta di gennaio. Perché, febbraio e così via. Perché, Peppetti, è stata estesa questa possibilità di compilare questo modulo di autocertificazione, che prima era riservata solamente a un tot di sottoscrittori di mutui? Beh, in realtà la norma non era in questo senso così prescrittiva, era consentita la possibilità comunque di presentare il sistema di autocertificazione, sì. Noi abbiamo il documento di autocertificazione, noi abbiamo semplicemente informato il cliente di questa possibilità, che di fatto poi accelera tutte le procedure senza dover attendere il flusso da parte dell'agenzia delle entrate. È ovvio che poi il cliente si assume tutte le responsabilità di quello che certo. Quindi, per dare un'ultima indicazione concreta ai nostri ascoltatori, io naturalmente prendo sempre me stessa come esempio, tanto che ho il mutuo a tasso variabile, lo sanno anche i sassi ormai, e qualcuno anche mi ci prende anche un po' in giro, perché dice, insomma, la conduttrice di Salvadanaio ha fatto questo errore, che non ritengo sia stato un errore, perché ritengo di aver potuto sopportare serenamente il peso della rata in settembre. Il problema è chi non ce l'ha fatta, ma questo è un altro tema. Allora, devo attivarmi io, Peppetti, con la mia banca per chiedere di compilare questo modulo di autocertificazione, o è la banca che si fa viva con me, mi dice, guarda, hai questa facoltà, fammi presente qual era la tua situazione? E dunque, lei si può comunque già presentare, magari è già inserita nella lista, è già tra coloro che sono già stati censiti da parte dell'agenzia delle entrate, quindi è soltanto, sì, perché io l'ho fatto nel 2004. Sì, appunto, può darsi sia anche un problema procedurale della banca stessa. E, tuttavia, se lei, per stare più tranquilla, si presenta con il suo documento di autocertificazione, può comunque richiedere l'avvio della procedura e in un mese le viene sicuramente riconosciuta. Benissimo. Maximilian, abbiamo da aggiungere qualcos'altro relativamente alla questione del 4%? Beh sì, ci sarebbe da aggiungere qualche altro problema. Prima la scheda diceva che ci sono alcune questioni in sospeso e sicuramente verranno fuori nelle prossime settimane, perché ancora io torno a parlare, probabilmente chi ha sentito le puntate precedenti mi ha sentito già parlare di questa vicenda, torno a parlare dei mutui misti, cosiddetti mutui con opzione, quelli che a un certo punto ti danno la possibilità di scegliere tra fisso e variabile. L'orientamento delle banche, delle filiali, è di non includere questo tipo di mutui, mentre invece io già avevo in precedenza parlato con l'ABI, anche con il dottor Peppetti, questo tipo di, questa tipologia poteva accedere alle agevolazioni. Questo non è secondario, perché se noi ci mettiamo nei panni di uno che ha scelto magari l'opzione fisso a giugno dell'anno scorso e che per tutto il 2009 si paga un tasso del 6%, ecco, per questo qui il vantaggio potrebbe essere abbastanza significativo. Io a tutti quelli che mi chiedono perché questo tipo di mutui dovrebbero essere inclusi, rimando a una circolare dell'ABI? Dell'Agenzia delle Entrate? No, esattamente, una circolare del Ministero, sì. In cui chiarisce che le norme del decreto anticrisi si applicano a tutti i mutui che non siano a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento. Perfetto, e mi sembra abbastanza chiara come precisazione. E in effetti un mutuo con opzione non è a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento, per parti dell'ammortamento. È chiaro che su questo ci sarà molto da discutere. Quello che io chiedevo è avere anche una posizione ufficiale, non soltanto ufficiosa, da parte dell'ABI o del Ministero, che chiarisse su questo tipo di mutui, perché sennò si rischia che ogni banca agisca un po' in ordine sparso e a qualcuno venga... Come già fanno, peraltro, adesso non per infierire, ma ci hanno abituato a questo ed altro. E... Pepetti, adesso io non so se lei ovviamente è la persona giusta per poter esprimere una posizione ufficiale su questo, però insomma l'orientamento dell'ABI mi sembrava di apertura su questo. Noi abbiamo anche scritto una terza circolare che accompagnava la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si precisa che i mutui a tasso misto, a prescindere dall'opzione scelta, nel corso del 2009 rientrano nell'ambito di applicazione della norma. Quindi eventualmente forse potremmo rifare una informativa. Sì, probabilmente necessaria un po' rafforzativa questa posizione, perché era, insomma, mi sembrava abbastanza chiaro sia il dettato della norma che quindi la nostra posizione. Dottor Pepetti, le faccio un'altra domanda, poi ci sono alcune considerazioni di alcuni ascoltatori. Quando nei mesi passati molte famiglie hanno tentato di rinegoziare il mutuo prima del provvedimento del 4%, la banca diceva no, non è possibile perché il tuo mutuo è stato cartolarizzato. Adesso non è che questo rappresenterà un ostacolo anche per l'applicazione del tetto del 4%? Allo sportello ci sentiremo di nuovo ridare questa risposta? Il tuo mutuo è stato venduto, pertanto non possiamo più gestirlo noi direttamente? No, guardi, qui sono intervenute tre circolari e tre ulteriori nostre informative, in cui abbiamo chiarito che la norma del 4% si applica a tutti i mutui, qualsiasi sia stata la destinazione dello stesso, quindi qualsiasi sia stata la tipologia di cessione, quindi anche per i mutui che sono stati oggetto di operazione di cartolarizzazione. In merito alle rinegoziazioni, voglio dire che in base ai dati di Banca d'Italia, quindi di un soggetto terzo, quindi non sono dati dell'ABI, le operazioni di negoziazione che sono state effettuate nel corso del 2008, sono volontariamente tra banca e cliente, sono state 150.000, di cui si aggiungono le 45.000 derivanti dalle negoziazioni in base all'accordo ABI-Tremonti. Ecco, tra l'altro anche quello sarebbe interessante ritornare un po' a capire che cosa è successo di quello, di quella convenzione, data la discesa dei tassi anche in quel caso, ma magari adesso ci riserviamo nella seconda parte di Salva Danaio un commento su questo. Leonardo da Vicenza apre le nostre telefonate, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Beh, sembra che abbia già detto tutto lei. È stata bravissima. No, vabbè. Intanto una domanda, se posso, e dopo una considerazione. Ci mancherebbe, certo. Allora, io ho fatto un mutuo, anch'io nel 2004, con un tasso, non è un variabile, però ho la rata solo interesse e ogni due anni la maxi rata. Sì. Credo che rientri pienamente nel... Rientra nella fattispecie dei misti? Sì. Generali, sì. Dei misti o del variabile? No, sì, è un variabile. Sì. Allora, guardi, introduciamo Pietro Locatelli, perché sennò no. Penserà che l'ho invitato solo per starci a guardare stamattina. Sì. No, molto semplicemente, essendo un mutuo a tasso variabile, il piano d'ammortamento non va assolutamente ad incidere su questa operazione del 4%. Quindi lei tranquillamente può beneficiare dall'agevolazione del 4%. Perché, Leonardo, da quello che capisco, lei ha provato a fare la richiesta in banca per capire se questo beneficio lo potesse ottenere o meno. Non sono riusciti a risponderle? No, proprio hanno detto che loro la lista dall'Agenzia delle Entrate non hanno mai ricevuto, ricevuto nessuna comunicazione dall'ABI addirittura, però io devo dire che tratto con call center, perché non c'entra niente. Ecco, no, ero cliente. Anzi, solitamente sono qualche volta anche più preparati, quindi... Sì, no, ma comunque l'ultima telefonata l'ho fatta 2 settimane fa e poi mi sono riproposto che comincerò ad email e a fax, perché poi scriptamanent, certo, sì, Leonardo, no, infatti non ci sentono molto e sono sempre pronti a trovare scuse. Lei non deve fare, infatti mi stava suggerendo giustamente Maximilian Cellino, si scarichi questo modulo dell'autocertificazione dal sito dell'ABI, che è quello istituzionale Maximilian, e da lì sicuramente più scritto di quello di documento ufficiale. Esatto, l'ha appena detto l'ABI, per velocizzare, per risolvere questo problema che è avvenuto nella trasmissione dati tra le agenzie, l'Agenzia delle Entrate e le banche, e si deve procedere all'autocertificazione. La scarica dal sito dell'ABI, anche dal sito del Sole 24 Ore, in realtà si può fare. Ah sì, scusami, volevo essere scortese. No, magari la mettiamo anche sul sito di Radio 24, così siamo a posto e non possono più scappare. Allora Leonardo, provi questa via. Ovviamente non è solamente lei che non ha ancora ricevuto il rimborso di questa famosa eccedenza, ma tutti coloro che ne hanno diritto, per cui pazienti ancora un po'. Abbiamo capito tutte quelle che sono state le complicazioni di questa questione, ma sicuramente andrà a buon fine, speriamo. Comunque noi siamo qua, Maximilian vigila con grande attenzione e ci aiuta molto spesso poi a spiegarvi anche le situazioni, perché si complicano a volte. Volevo salutare Angelo Peppetti e chiedergli se abbiamo ancora un'ultima raccomandazione da fare ai nostri ascoltatori, Peppetti, anche alla luce di quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore poco fa. Sì, ripeto, andate in banca e con il vostro modulo di autocertificazione compilate, attenzione a quello che dichiarate, perché è una dichiarazione che ha una rilevanza anche penale, esatto. E avrete senz'altro il riconoscimento del tetto del 4%, quindi il contributo, ripeto, con valuta alla data di scadenza della rata. Perfetto, io la ringrazio. Peraltro il modulo di autocertificazione, Pietro Locatelli, se lo è portato, poi sì. Noi gli diamo un'occhiata. Adesso cerchiamo di dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori per capire su cosa, allora, tanto su niente si deve mentire naturalmente, ma se qualcuno ha qualche dubbio sulla corretta dicitura, sulla corretta cosa da scrivere, magari gli diamo qualche indicazione. Rimettetevi le cuffie che ripartiamo, eccoci di nuovo ritrovati a Salvadanaio. Volevamo affrontare il tema dei mutui a 360 gradi, partendo con il punto della situazione sul tetto del 4%, già la vaga sensazione che tutta la trasmissione sarà dedicata a questo. Abbiamo lasciato Angelo Peppetti dell'ABI, che ci ha rispiegato, così come avevamo fatto nella scheda di apertura, le motivazioni per cui le banche non hanno ancora restituito l'eccedenza del 4%, come aveva promesso il ministro Tremonti. E in ogni caso questa restituzione a chi ne ha diritto dovrebbe essere fatta al più presto. Adesso tutti coloro che ritengono di essere il diritto di averla devono compilare un modulo di autocertificazione che è pubblicata sul sito dell'ABI, sul sito anche del Sole 24 Ore. Ma il tema è, non vorremmo come dire, creare anche un malinteso, ritornare a ribadire chi ne ha diritto, perché qua la situazione è complicata, è molto eterogenea, molto complessa. Allora ci aiutano a rifare un punto della situazione, oltre ai nostri ascoltatori ce ne sono tanti ancora in attesa, abbiate un attimino di pazienza, ma ci aiutano a fare chiarezza Maximilian Cellino, Plus 24 del Sole 24 Ore, e Pietro Locatelli, consulente del gruppo Avalon S.p.A. Allora Locatelli, ripartiamo con lei. Chi ha diritto a questa restituzione in questo momento? Ecco, tenendo presente che l'autocertificazione si avvale dalla possibilità di cui al DPR 445, che in caso di una dichiarazione mendace può incorrere anche in rischi penali, come è stato detto prima, è bene sapere chi ha titolo per poter davvero compilare questa autocertificazione. Innanzitutto coloro che hanno acceso il mutuo prima del 31/10/2008. Con tasso variabile, e potrei dire anche con tassi misti, purché il tasso misto valga per tutta la durata dell'operazione, anche coloro che hanno avuto il mutuo da accollo, perché questa è una domanda che mi viene fatta da costruttore. E la vedo anche dagli ascoltatori. È fondamentale questa possibilità per chi ha avuto il mutuo da accollo e anche chi ha goduto della rinegoziazione. Quindi queste sono le categorie che possono avere beneficio e coloro che hanno acceso il mutuo per i motivi dell'acquisto della casa d'abitazione oppure per la ristrutturazione della propria casa d'abitazione, lasciando in disparte alcune realtà che possono essere castelli, case di lusso, eccetera, che non vengono prese in considerazione logicamente da questa possibilità di agevolazione sul mutuo in essere. Detto tutto questo, sentiamo allora se a Silvestro dalla provincia di Lecce questa restituzione quando ci sarà, se spetta. Silvestro, benvenuto. Sì, buongiorno, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire. Difatti la mia domanda appunto verteva proprio su questo, e cioè avendo acceso un mutuo a tasso variabile nel 2000, visto che tuttora sto pagando ancora più del 4%, sebbene sia a tasso variabile. Perché, Silvestro, che condizioni ha il suo mutuo? Avevo praticamente l'Euribor a 6 mesi più uno spread dell'1,5%. L'1,5, quindi tuttora... Beh, ma l'Euribor a 6 mesi oggi è... Solo che siccome la banca mi pare che lo parametri ogni 6 mesi. 6 mesi, esatto. Perfetto, rata semestrale, certo. Perfetto. E quindi il problema è che sicuramente da luglio mi si abbasserà, suppongo. Io tra l'altro la ringrazio per questa precisazione, perché questa mattina quando ho fatto la trasmissione Soldi e dintorni e ho lanciato il tema di cui ci saremmo occupati a Salvadanaio, ci sono stati gli ascoltatori che si sono subito affrettati, e sono sicura che fossero dei bancari un po' permalosi, a dire vabbè, ma non fate disinformazione, perché non c'è più nessuno che paga un tasso superiore al 4%, sembra impossibile, e dunque non c'è più nessuno che ha diritto a questa restituzione. Invece c'è ancora, come avete avuto la testimonianza, chi ha diritto a ottenere quanto promesso, quanto attribuito, com'è che ha detto prima Peppetti. Precisiamo che verrà rimborsato con valuta a scadenza della rata. Benissimo. Il modulo di autocertificazione che va compilato, scaricabile con le modalità che abbiamo detto, è una paginetta, ma non è poi così semplice da capire, bisogna essere molto attenti a quello che si scrive. Locatelli. Sì, no, non, è ben indicato, cioè è un percorso abbastanza tracciato, quindi non è così difficile, però la preoccupazione di più, e io ho diversi mutuatari che mi sollecitano a chiarire il tutto, era proprio sapere se... quando e come potevano avere titolo a questo tipo di rimborso. Quindi direi che chiarendo gli aspetti della possibilità di accedere a questo tipo di rimborso, credo che sia risolto il problema della compilazione del modulo. Giuseppe dalla provincia di Messina, siamo qua ancora, chi paga ben sopra il 4%, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie a lei e ai suoi ospiti. Io sono nella situazione dell'ospite precedente, perché pago il 4,57 ancora, perché ho un mutuo stipulato nel 2004 con un tasso riferito all'Euribor a 6 mesi più l'1,50, per cui io potrò godere di qualcosa a partire dal prossimo mese. Certo. Però Giuseppe, mi scusi una cosa, ma lei non ha tentato una rinegoziazione di altro tipo in questi mesi in cui la rata è schizzata verso l'alto? Ce la faceva ancora? No, sono arrivato a pagare il 6,50 l'anno scorso, però sono convinto che il tasso variabile alla lunga mi dia ragione. Tuttavia, siccome... guardi, io sono della sua stessa convinzione, mi chiedevo solamente, siccome per certi momenti lo spread all'1,50 era piuttosto alto, magari chiedere alla banca così di concederle qualcosa in più, non ci ha neanche provato. Ma è una curiosità, Giuseppe, poi faccia pure quello che ovviamente nessuno contesta la sua decisione. Sì, no, voglio dire, ci ho provato, in quella circostanza io non ho un mutuo molto alto, per cui non era una cosa che, voglio dire, mi intaccasse tanto le tasche. Benissimo. Tuttavia la risposta è stata, non possiamo passare lo spread, al limite possiamo rinegoziare, allunghiamo il mutuo, certo. Però questa cosa a me non piaceva, addirittura avevo chiesto di pagare di più e di accorciarlo il mutuo, e questo non mi è stato concesso. Tuttavia la cosa che mi preme di voler dire è che anche questa cosa mi sembra una di quelle cose fatte all'italiana, perché è da un anno che si parla di questo, nessuno ha visto alcun rimborso, addirittura all'inizio, seguendo voi da tanti anni, si sentiva dire che non c'era, che il mutuatario non doveva assolutamente fare nulla, che tutto sarebbe stato automatico, che i soldi sarebbero arrivati in un modo o nell'altro. Siamo a giugno del 2009, quando adesso gli effetti probabilmente svaniranno, e mi si dice invece che devo andare a fare un'autocertificazione, che se sbaglio incorro nel penale. Mi sembra davvero una di quelle cose all'italiana. Giuseppe, si dice e poi non Giuseppe, si può dire. Noi ci accomuniamo a tutta la sua frustrazione. Si figuri a me, che faccio da 5 anni salvadanaio e ho fatto tante di quelle puntate sui mutui che veramente ma non ne sono ancora venuta a nausea, peraltro, perché continueremo, anzi magari incentiveremo ancora di più l'organizzazione di trasmissioni su questo tipo. Ma ricordava Maximilian Cellino proprio sulla questione del 4% in questo pezzo del 13 giugno, e poi credo che ci sia stata un'altra circolare intervenuta, che per sbrigliare la matassa del 4% ci sono voluti 7 interventi successivi, ci sono volute 3 circolari esplicative da parte del Ministero delle Finanze e non so quante circolari dell'ABI. E ricordavo che per la surroga, altro tema caro a questa trasmissione, ci sono voluti ben 7 interventi legislativi prima che entrasse a regime. Già ancora adesso qualche granello di sabbia nell'ingranaggio c'è ancora, un po' funziona e un po' no. Però io a Giuseppe Silvestro, se mi permettete, la risposta, che loro chiedevano una risposta se ne avevano diritto, io credo di sì, però c'è un tassello importante da vedere, perché... giustamente le cose non le facciamo mai molto semplici in Italia. Allora, non è perché per tutti il governo interviene dal 4% in su. Il governo dice di guardare una cosa, dice di guardare il famoso tasso contrattuale, che in generale è il tasso che viene pagato con la prima rata. Che succede? Se questo tasso era già superiore al 4%, il governo non è che rimborsa dal 4% in poi, rimborsa dal tasso contrattuale. Per cui a Silvestro e a Giuseppe devo consigliare di vedere qual era il primo tasso che hanno pagato, presumibilmente sotto il 4%, dico a senso, spanne, perché ricordo 2004... nel 2004 e anche nel 2000 i tassi erano molto bassi. No, forse nel 2000 nel no. Nel 2000 no. Forse nel 2000 no. Quindi controllare qual è il primo tasso pagato e poi a partire da quello avviene il rimborso da parte della banca. Della banca. E attenzione ancora, perché non è finita qui purtroppo, e per questo molte persone avranno qualche problema, il tasso contrattuale non è sempre quello pagato con la prima rata, perché se nel frattempo è intervenuto un'operazione di accollo, ma anche di rinegoziazione con la stessa banca, il tasso contrattuale diventa automaticamente quello primo dopo la rinegoziazione. Cosa succede? Molte persone, come suggerivi te in precedenza, hanno fatto una rinegoziazione nel 2008, magari abbassando lo spread. Che è successo? Che magari loro hanno abbassato lo spread, mettiamo dall'1,5% all'1%, e il primo tasso dopo che hanno pagato era comunque del 5%, perché gli Euribor erano molto alti. Ecco, in quel caso lo Stato può intervenire a partire dal 5%. Questa è una cosa a cui bisognerà fare molta attenzione. Quindi cosa vuol dire concretamente lo Stato interviene a partire dal 5%? Allora, l'agevolazione... Tutti dicono, giustamente, per semplificare, che l'agevolazione avviene oltre il 4% paga lo Stato. Sì, d'accordo. Benissimo. Mentre invece non è esattamente corretto. Lo Stato interviene a partire dal 4% se tu all'inizio pagavi un tasso minore del 4%. A partire dal tasso che pagavi all'inizio o dopo la rinegoziazione se tu pagavi... più del 4%. Cioè, il concetto è questo, è paradossale, ma il concetto è questo: io ho accettato contrattualmente il 4,5, quindi ero convinto di poter pagare il 4,5. Esatto. Se il 4,5 è la base di partenza, è chiaro che lo Stato per quel contratto interviene per ciò che uno va a pagare oltre il 4,5%. Se paga il 5%, ecco che gli rimborsa lo 0,50. Questo qua. Mamma mia, che ginepraio, sembrava così semplice e invece non è semplice un bel niente. Peraltro, questo lo voglio dire a Gaia, la mia collaboratrice, vedo che sta arrivando una domanda di un ascoltatore, magari la possiamo pescare per la seconda parte, di Luciano da Roma, che vorrebbe richiedere come ci si dovrà comportare con il 7.30 dopo, perché questo è un tema che mi aveva suggerito Locatelli di affrontare, perché attenzione poi sugli interessi passivi che si maturano appunto sul mutuo, come sappiamo abbiamo una detrazione del 19%, ma applicando la misura del 4% qualche sorpresina ce la potremo trovare anche nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Sentirei un'altra domanda, poi i suggerimenti per chi è in viaggio, poi la risposta. Chi è in attesa da più tempo? Filippo. Sergio da Milano, buongiorno. Sergio, buongiorno. Eccoci a lei. Sono Sergio. Sì. Complimenti per la trasmissione. Io volevo sapere una cosa. Allora, mi si è abbassato tanto ho fatto un mutuo variabile. Sì. Mi si è abbassato tanto il tasso, diciamo da 180 di 2-3 mesi fa è sceso a 80. Però il tasso da 180 a 80 è sicuro, Sergio? Sì, la rata mensile. Sì, la rata mensile da 180 euro di che pagavo è sceso a 80, però mi è salito il capitale e pago sempre la stessa rata. Ah, Sergio, adesso un attimo. Allora, quanto ho capito, allora probabilmente lei vuol dire che gli si è abbassata moltissimo la quota interessi, che lei paga una rata, perché una rata è costruita, io interpreto, è costituita da una quota interessi e da una quota capitale. Ed è normale nei piani di ammortamento alla francese, quasi la totalità di quelle italiane, che nel corso del tempo la quota capitale da restituire aumenta. Mm-hmm. E questo è anche un bene, perché lei restituendo più quota capitale, poi dopo abbatte più il capitale da restituire, certo, e paga meno interessi in futuro. Comunque è un meccanismo di aggiustamento. Esatto, un meccanismo che è insito nel cosiddetto piano d'ammortamento alla francese. Rimettetevi le cuffie, stamattina devo sgridare i miei ospiti che si divertono a chiacchierare tra di loro. Sto scherzando, naturalmente, anzi, una bella trasmissione, molto vivace, nonostante il tema ci faccia arrabbiare sempre. Tra l'altro, stavo controllando anche i messaggi dei nostri ascoltatori al 349-238-6666, tornando sempre sull'agevolazione, chiamiamola così, del 4%. Non è neanche tanto corretto definirla in questo modo. Ribadiamo, perché vedo che ci sono delle perplessità su questo, che è una restituzione che vale eventualmente solo per il 2009. Sì, esatto. Pietro, esatto. Locatelli. Le rate che sono da pagare nel 2009. Uh-huh. E un altro ascoltatore sottolinea invece: la mia banca ING Direct mi ha subito restituito 34 euro facendo una telefonata. Maximilian Cellino allarga le braccia, noi l'avevamo detto da subito. E insomma, poi la banca dice: se la vede con lo Stato, quando lo Stato, sotto forma di credito d'imposta, credo, restituirà appunto alla banca queste cifre, è un problema con la banca e il governo. Ma è una mossa intelligente, perché tutto sommato lo Stato paga in valuta e quindi alla scadenza della rata, quindi anticipare questo è solo una bella mossa, una bella attenzione al cliente, dall'altra parte non ci rimette nulla. E vabbè, e andiamo avanti intanto. Allora, Luciano da Roma, ha voluto lei con grande forza, perché il punto che lei ci vuole sottoporre mi era stato suggerito prima della trasmissione da Pietro Locatelli, pertanto cogliamo volentieri la sua domanda. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho acceso un mutuo nel 99. Pronto? Sì, sì, Luciano, stiamo ascoltando. Sì, volevo sapere da quando partiva questa restituzione per l'eccedenza. E poi volevo fare anche la domanda della detrazione 19% che sono state fatte col 7,30, diciamo. Sì, ascolti Luciano, posso fare a meno di ripetere ancora una volta come avverrà la restituzione dell'eccedenza, perché ci siamo dedicati a questa tutta la prima parte della trasmissione, spero che lei l'abbia potuta ascoltare. Io volevo però affrontare il tema della dichiarazione dei redditi del 7,30, perché come ben sappiamo sul mutuo a tasso variabile, ma su tutti i mutui per la verità, se paghiamo interessi superiori, no, fino a 4.000 euro nel corso dell'anno, abbiamo diritto a questa detrazione massima del 19% che possiamo appunto documentare in dichiarazione dei redditi. Come la mettiamo, ecco, Locatelli, con questa eccedenza? Questa eccedenza del 19%, per poter evitare la tassa del 19%, noi, cioè per pagare la tassa, per rinnovare l'agevolazione, dobbiamo stare attenti a quello che lo Stato ci anticipa. Dobbiamo farla al netto, la richiesta di riduzione delle tasse al netto di quello che paga lo Stato. Quindi non so ancora se il sistema bancario, e questo forse il circolare ABI dovrebbe anche parlarne, invitare le banche a fare una dichiarazione agli interessati già al netto di quello che lo Stato anticipa. Credo che però questo sarà un problema che ci porremo solamente l'anno prossimo. Esatto. Beh, 2010 però, e bisogna allora tenere, siccome non sempre si rifà alla trasmissione di questo tipo, è bene ricordare che il mutuatario deve anche ricordarsi che una parte di quegli interessi la sta pagando lo Stato, e quindi lui deve fare la dichiarazione al netto di quello che paga lo Stato. E vabbè, comunque credo che siccome ci certifica tutto la banca sarà in grado anche di certificarci la cifra degli interessi versati corretti. Auguriamoci che sia davvero che partano davvero queste autorizzazioni. Allora, Francesco da Bologna contesta la richiesta di rinegoziazione, così in termini generali. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Ci dica tutto. Grazie per la trasmissione. Volevo segnalare solo un fatto, una considerazione la mia, lei e i suoi ospiti. In realtà il fatto che l'Euribor, io ho un tasso variabile, no? Sì. Il fatto che l'Euribor sia abbassato e quindi questo sia un'agevolazione per chi ha già contratto un mutuo, sì. Io ho provato a rinegoziarlo, ma che perché forse ho detto è il caso che passi a un fisso se il costo del denaro è così basso, no? Sì. Ebbene, gli spread sono aumentati in maniera proporzionale al calo, o meglio, vogliamo dire, inversamente proporzionale al calo del costo del denaro. Stiamo denunciando da mesi, Francesco, sì, ma lo so. sappiamo benissimo. È come dire, cioè, forse è il caso che i governi non diano soldi alle banche, perché avendo le banche in crisi, queste sono costrette a vendere i loro prodotti. Magari poverine, che no. Certo, stanno cercando anche. Non vorrei neanche essere poco rispettosa di Pietro Locatelli, che in sistema bancario ci ha lavorato a lungo, per carità, però il tema dello spread è un tema arcinoto in questo momento. Che le banche bisogna ricordare che la provvista, pur essendo ridotto il tasso Euribor a quello che conosciamo, l'1,15, l'1,20 eccetera, però la provvista, oggi si fa fatica ad avere la provvista, non solo, ma anche quella parte dello spread che va a coprire il rischio dell'operazione è aumentata di molto, perché il contenzioso delle banche da questo punto di vista è veramente incrementato. Quindi una certa giustificazione a questo tanto la possiamo trovare. Sul fatto che magari, come dire, la considerazione del nostro ascoltatore ci porta a farne un'altra, la rinegoziazione del mutuo non deve necessariamente sempre per forza, certo in questi ultimi mesi è stato necessario, inseguire il tasso di interesse così come la sottoscrizione da zero di un mutuo, per chi magari sta facendo questa scelta adesso. Noi inseguiamo solamente il tasso di interesse, capisco che adesso sia particolarmente vantaggioso il mutuo a tasso variabile, forse su questi livelli chissà se in futuro lo rivedremo mai più, ma prima di tutto, Maximilian, su questo non finiremo mai di fare tutte le raccomandazioni, cerchiamo di vedere anche quello di cui ha bisogno la nostra famiglia, di quale grado di sicurezza, quanto ci impegna il mutuo, ci sono tanti aspetti da considerare, non è solamente il tasso che va inseguito in maniera anche ossessiva a volte. Esatto, non il tipo di tasso. Adesso è chiaro che una persona in questo momento fa un mutuo a tasso variabile e risparmia subito moltissimo. Penso anche, dipende dalle durate, ma può anche risparmiare un buon 20%, almeno anche di più, dipende appunto dalla durata del mutuo. In genere quando arrivano moltissime domande, immagino qui e anche a noi, cosa devo fare? Scelgo il fisso, scelgo il variabile? E purtroppo nessuno mai, giustamente perché sono dati abbastanza sensibili, dice quanto guadagna. E questa è la cosa fondamentale, perché uno deve parametrare la scelta del fisso e del variabile alle proprie entrate, anzi deve pensare come saranno le proprie entrate nel futuro. Io l'unica cosa che faccio ogni volta, non posso dire se scegliere uno o l'altro, non sono un consulente, sono un giornalista, la professione me lo impedisce, l'unica cosa che posso fare è rimandare ha anche un meccanismo di calcolo che esiste anche sul sito del Sole 24 Ore, che fa vedere una cosa abbastanza carina, fa vedere, uno inserisce dentro, non so, i 100.000 euro e i 20 anni e uno spread medio che li fanno, sarà l'1,2, l'1,5% in questo momento, e gli dà il motore di calcolo, dà la rata attuale e la rata come sarebbe di un mutuo a tasso variabile se i tassi tornassero ai livelli di settembre-ottobre dell'anno scorso. Allora, non è detto che tornino a quel livello, non è detto che si fermino a quello, però se uno vede la differenza è abbastanza sensibile. Se uno si spaventa a vedere quel tasso lì, quella rata lì, allora è meglio che si faccia un fisso. Che adesso è più costoso, è più oneroso, tutto quello che vogliamo, ma sicuramente è inchiodato là. Non ci dovremmo più spaventare di niente, Locatelli. Però io faccio una distinzione. È un conto qualche anno fa quando si era particolarmente ingessati, cioè uno faceva il mutuo e non poteva spostarsi da una banca all'altra, non poteva avere la surroga, non poteva avere la rinegoziazione del mutuo, non poteva avere la sostituzione del mutuo, se non con difficoltà enormi. Oggi invece è consentito muoverci nell'ambito delle surroghe, nell'ambito della sostituzione, nell'ambito della rinegoziazione, e quindi abbiamo una possibilità di poter scegliere anche in corsa, e questo è importantissimo. Infatti è quello che ha fatto Dario da Milano, che non è stato certo a guardare quello che succedeva al suo mutuo. Dario, lei ha contrattato più volte con la banca. Dario? Dario, sì, adesso la sento, dove era finito? Grazie per avermi accolto in trasmissione. Sì, io praticamente ho fatto un mutuo nel 2003 quando il tasso variabile era ai minimi storici, si parla del 2-2,60%, minimi storici per allora ovviamente. Adesso sono in galleria, spero che il segnale non vada via. No, non ci scappi. Dopo qualche mese, parlando anche con persone molto più ravvedute di me, mi sono reso conto che l'Euribor, che lo spread era molto alto, all'1,5, al che ho fatto la prima rinegoziazione per abbassare lo spread all'1. Dopodiché mi sono reso conto, ascoltando sempre la vostra trasmissione, iniziando a comprare il Sole 24 Ore, che l'Euribor a un mese è sempre costantemente più basso di almeno un punto percentuale rispetto a quella a sei mesi. E quindi lei ha chiesto alla banca, perché non me lo agganci a questo? Esatto, questo prendendo in paragone diversi anni di tempo, non un tasso, non un periodo di tempo molto breve. Quindi sono andato in banca e ho chiesto, mi fate l'Euribor a un mese? No, non possiamo, perché altrimenti poi lo vogliono anche gli altri, va bene, ho cambiato banca. Bella scusa. Ho cambiato banca immediatamente, senza neanche batter ciglio, perché le banche sono dei fornitori, ecco, e quindi vanno trattate come fornitori. Ha fatto una surroga e adesso è soddisfatto, Dario? Ho uno spread di 1,1, perché l'altra banca mi ha voluto fare l'1,1 perché i tassi erano già bassi, ho l'Euribor a un mese, risparmio moltissimo. E voglio dire a tutti i miei colleghi che hanno il mutuo che la banca non dirà mai che l'Euribor a un mese è più basso di quello a sei mesi, ma dirà che è rischioso, e questo non è vero che è rischioso, perché mi scusi se dico quest'ultima cosa, nell'arco di tempo di sei mesi nei quali l'Euribor a sei mesi si riaggiorna, l'Euribor a un mese può aumentare mensilmente, però anche se aumenta mensilmente non riesce a raggiungere quella sei mesi. Dario, io devo salutarla perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Lei però è una persona molto molto molto brava e perde, tra virgolette, anche molto tempo dietro l'andamento del suo mutuo. Non ho usato forse la parola sbagliata, però molte famiglie magari non hanno neanche tutta questa capacità di correre dietro ai tassi a cui il mutuo è agganciato. Allora, se non si ha anche questa capacità, è meglio proteggersi un attimino e fare un'altra scelta. Detto questo, Locatelli, l'ascoltatore, ha proprio detto quello che lei indicava prima, esatto. Adesso il movimento, come detto, tutto un po' più flessibile rispetto a qualche anno fa. Sicuramente sì, e quindi è più facile anche trovare l'istituto, cambiare istituto qualora l'istituto non sia in grado di accontentare il cliente nella surroga, nella rinegoziazione o nella condivisione. Benissimo. Di un passo. Grazie a Pietro Locatelli e Maximilian Cellini. Abbiamo terminato rapidamente. Avremmo dovuto parlare anche delle polizze che proteggono dalla perdita del posto di lavoro, un tema a cui Locatelli tiene molto attuale. Ci ritorneremo allora presto, perché è un tema molto sensibile per chi davvero adesso si trova in situazione di difficoltà con il proprio datore di lavoro. Noi ci sentiamo domani, buona giornata.